Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Mi trovo in una di quelle fantastiche situazioni in cui capita di avere una carrozza a completa disposizione. Non c'è nessuno, ci sono soltanto io. No, anzi, qualcuno c'è. E lo sento perché sta suonando una chitarra. Da quanti anni sono che non vedo persone che vanno in giro con la chitarra in mano? Dagli anni 70, dalle gite con i preti, dagli intellettuali che hanno sempre una chitarra dietro perché faceva fino. Eppure questa ragazza bionda, giovane, carina, solitaria, è lì e strimpella con la sua chitarra, da sola in uno scompartimento, non più sola perché ci sono io. Diciamo che tutte le cose belle in qualche modo mi sono successe proprio in montagna. Sì, tipo? L'ultima speravo che accadesse in montagna, di cosa bella. Invece poi non è stato così perché c'era questo ragazzo e... L'avevi portato te in montagna? L'avevo portato io in montagna. Con visto te. Che tutte le cose belle accadono là, ho detto portiamolo in montagna. Ti ho preso uno che ti piace, vieni in montagna con me. No, ci siamo trovati per una serie di circostanze a andare in montagna tutti quanti nello stesso posto. Un gruppo di amici eravate? Sì. Ragazzi e ragazzi. Le altre cose c'era anche lui. Con la chitarra, cosa tristissima. Con la chitarra, proprio col camminetto, i gatti, no scherzo. Sì, ma Lara dice andiamo tutti assieme a fare una cosa in montagna. Nessuno sì. Pensava che c'era il doppio fine. No, però insomma, ma cominciata... si fanno a 15 anni, però, no? A 36. Ma quanti no, ce n'hai? È vero. Sì, succedono anche... No, 26 o 36? Alcune cose succedono... 26. No, perché suona a chitarra come suonava tre generazioni prima. Vai, dai. Vuoi che aumento il volume? Sì, dai, aumenta il volume. No, ma solo mando un momento. Allora. Comunque, allora, insomma, che è successo in questa settimana? È successo un disastro in realtà, perché non era una storia per niente romantica. Ma tu dovevi metterti insieme a questo ragazzo, parliamo. Io qua. Mettermi insieme a quel ragazzo era qualcosa di che sarebbe venuto dopo. Comunque, ma vabbè, eravate detti questo qualcosa, ragazzo in poche parole era ancora legato al ricordo di un'altra persona. Di quanto tempo perciò prima? Perciò sai quando uno dice chiodo schiaccio chiodo, dice vabbè. Di quanto tempo prima? Di una vita prima, nel senso che questa persona ha sempre fatto parte della sua vita. Che ancora accadano queste cose. Quindi tu avevi uno scopo preciso, dovevi metterti con lui e quindi hai organizzato la giornata in montagna. Il soggiorno montano. Io in realtà l'avevo conosciuto da molto poco. Poi, insomma, mi è piaciuto. All'inizio non molto, sinceramente. Però abbiamo cominciato a parlare. Lui era molto gentile. E allora a quel punto, insomma, è nato qualcosa che però, insomma, non è che sia stato proprio tutto questo romanticismo. Ma come fa a essere romantico, scusami, in una casa di montagna con 50 amici e amiche, con la chitarra, che ci può essere di romantico? Che tutti ma ti guardano. Uno esce, va a fare una passeggiata, sì, c'è la neve, ci sono le nuci. Cioè tu volevi che la cosa sbocciasse in mezzo alla neve, come nei film? Sì, esatto. Stesa sul avevo ghiaccio. Avevo anche in mente un bel film. Comunque, invece poi, dopo una settimana... Ma il freddo inibisce gli uomini, lo sai? Sì, in tutti i sensi. Ah, nel senso non è stato nemmeno all'altezza fisica? Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Ma scusa, ma adesso ti dico, non perché voglia difendere la categoria, questo poveretto. C'ha una che avrà capito che tu in qualche maniera avevi mire su di lui. Lo porti in montagna? No, che non l'ha capito. No, così se non ne esce, poverino, questo qua. Sì, poverino, sì. No. Avrà capito questo. Tu lo porti insieme a un'altra decina di persone. Quanti eravate? Eravamo 7, non esageriamo. 7 dai. In una casa stessa. Sì. Quindi dormire tutti insieme, al bagno insieme, ogni cosa che accade, no, tutti lo sanno. Non eravamo tutti una grande camerata. Vabbè, però... ma comunque sia si sa. Come poteva lui, diciamo, far sboccare? sbocciare questo amore di fronte a altre sette persone. Ma non è che doveva far sbocciare un amore, però in una settimana poteva sbocciare qualcosa comunque. Sì, ma come faceva a dartelo davanti a sette persone? Susa, ragione. ci sono altri luoghi nel mondo oltre a una casa con sette persone. Ma sì, ma il contesto. Se tu volevi una cosa romantica, andavate da soli te e lui. Non hai avuto tu il coraggio di andare da sola con lui. Non eri nemmeno tu. Volevi una cosa che accadesse. No. Perché uno se ne accorge quando una persona ha negli occhi un'altra persona, però ci prova comunque. Allora quello là non è così. Sì, ma non davanti a sette persone. Tu non hai avuto il coraggio di dire andiamocene da soli a stare insieme in montagna. Allora sarebbe accaduto. Non è che non ho avuto il coraggio, è che lui non era una persona con cui io potevo dire andiamo da soli in montagna. Perché? Ma perché no? Perché c'erano altre persone che dovevano venire. Vedi, allora tu devi, vuoi da una parte compensare la socialità, il grande ammortizzatore sociale degli amici, delle amiche, fai il passettino e ti porti dietro le amiche. Dicevi, caro, mi piace, andiamo a passare tre giorni in montagna. Fine. E lui ci veniva o non ci veniva? No, non vuoi rischiare. Adesso la storia è un'altra. È una gestione liceale di un amore, lo capisci? Devi uscire da questa gestione liceale. Un uomo, una persona adulta, non porta gli amici se vuole andare con una persona. Allora poi? E il passo successivo? Il passo successivo è stato, per finire appunto il fatto di né carne né pesce, rimanere in montagna. Quando tutti gli altri se ne sono andati o sei rimasta? Io sono rimasta, sì. E tutti avranno detto poverina, è rimasta perché quello stronzo non si è messo con lei e lei soffre. E lui pure se n'è andato. Lui se n'è andato. Quindi hai fatto la figura di quella che rosicava pure. No, io ho fatto la figura di quella. No, scusate, ma io adesso arrivano altri amici. Sì, altri amici. Vabbè. Invece sono rimasta da sola. E da sola, che hai fatto lì? Da sola, tutti partiti. Lui come l'hai salutato? Negli occhi cosa c'aveva quando l'hai salutato? Finalmente me ne vado da questa trappola. Sì, certo, per tornare in un'altra magari. Ma saranno lui... fatti i suoi. Beh, allora, ciao, mi raccomando, vediamoci presto. Sì, infatti. Esatto, le frasi tipo, oh, stammi bene, ti chiamo domani. Sì, e non ti ha mai chiamato? No, non... Nemmeno un non sms? In quella... No, assolutamente. E, in poi, quella... alla fine, cosa hai poi... fatto? Poi... Io appunto sono uscita, ho incontrato un'altra persona. Dove l'hai incontrato? Del posto. Ah, lì. Un'altra persona un del valligiano. Posto, sì. Un valligiano. Un valligiano il quale... Ma lascia stare, che ti frega di questi di Roma. Ah, quindi era roba tirolese? Io sono del posto, lo so io come si trattano le donne. E quindi ti ha preso e ti ha sbattuto come tu. Allora, questo qui poi ovviamente aveva capito che io ero un po'... Fragile. Molto fragile. Hai bisogno di essere chitarra, aiutata. Perciò dice, oddio, questa... E allora? Allora, ho fatto, guarda, io comunque tra una settimana... No, che era? Tra cinque giorni parto, devo prendere il treno perché ho prenotato il treno per tornare. Vabbè, cinque giorni, vogliate. Vabbè, in questi cinque giorni... Vabbè, gli ti ultimi vengono giorni, le vesciche insomma, in cinque giorni, sì. Vabbè, esatto. E, mi accompagna a prendere il treno. In realtà io però... E questi cinque giorni che avete fatto? Sei stata insieme, sei messa con lui comunque. Mi sono messa con lui, proprio messa con lui, no. Non me ne fregava niente di mettermi con avuto lui, una storia. Ho avuto una storia, mi sono un po', come si dice, dopo la settimana scaricata. Precedente, insomma, esatto. Il treno va. Mi sono fermato soltanto per pochi istanti. Il treno è ripartito, ma non è salito ancora nessuno nello scompartimento in cui sono solo con la ragazza con la chitarra. E mi accompagna al treno? Sì. Io dico no, guarda, io cambio il treno, cambio il biglietto. E sei rimasta? Vado dentro e cambio, esatto, sono rimasta. E quanto è passato? E ho prenotato il biglietto subitamente per quattro giorni. Vabbè, dopo. Da te che non c'è niente da fare nel esatto. Resto del mondo. Era un periodo di libertà. Di vabbè, libertà, ma chiamiamola vedi, così. Mi dai ragione, quella era la situazione ideale. La casetta in montagna, te sola con un uomo, la chitarra, ma certo, e il piffero, fare un ma concertino. Certo. Poi io, che ne sai come riesci a gestire le cose? A volte sbagli e non vabbè, lo adesso sai. Hai capito. Adesso l'ho capito. Se ti piace un ragazzo, non vai a fare la scampagnata con altri dieci amici e amiche. È chiaro. questo momento l'ho capito, ho avuto un'epifania. Servito questo viaggio solitario di notte in treno. Comunque, quella non fu la prima volta che cambiai il biglietto, perché nell'arco di 3 settimane tornai per 4 volte con il mio fedele accompagnatore. Sempre con il tedesco. A Bolzano a cambiare, esattamente, a cambiare biglietto, perché poi ogni volta, no, non partire, dai, resta ancora. E allora io andavo là, alla fine questi qua della stazione mi guardavano, dicevano, signorina, cambia biglietto? Mi guardavano come una madre, dicevano, ma voi alla Roma fine, cambiate biglietto? Dopo questa boffata di strudel che hai fatto? Alla fine, l'ultima volta, io comunque nella testa avevo ancora l'altra persona, sai come funziona. Ti serviva un diversivo. Avevo ancora l'altra persona, dico, oddio, c'avevo il terrore di tornare a Roma. Sì, perché tu dovevi giustificare a te poi... stessa che tu in realtà sei una donna che si concede solo per amore, non per passione. Esatto, poi quando in realtà non è vero che le donne si devono concedere mai, solo per amore. Ma perché nemmeno nel... Cacchio, non è così che nemmeno nei monasteri di clausura succede. Esatto. Comunque poi, l'ultima volta... Io ho il terrore di tornare a Roma perché avevo ancora in mente lui, però mano a mano che passavano i giorni se ne andava questo pensiero. L'ultima volta che devo partire, dico guarda, domani non possiamo fare questa storia ogni volta che io cambio il biglietto. Vado da sola, non mi accompagnare che sennò torniamo a casa tutti e due insieme. E arrivai con lo studio. Esatto. Allora lui mi fa va bene, resto qua. Vabbè. Parto con la corriera, valigia, chitarra, tutto quanto. Arrivo alla stazione. La signorina mi vede, io nel frattempo nel viaggio avevo sempre che era il suo incubo. No, infatti ha cambiato postazione, mi ha visto, ho visto che si è alzata e è venuto un collega al posto suo. Io arrivo là, questo signore mi dice, allora signorina, si vede se la spazza la voce, cambia biglietto. Io in quel momento dentro di me ho avuto un momento, mi sono svegliata, diciamo, perché quella frase il mio accompagnatore la diceva sempre per prendermi in giro. Allora cambi biglietto. E gli ho detto, sì, ma non cambio solo il biglietto, ho deciso di cambiare anche persona. Ma è una grande svolta, vedi? E da quel momento? Ma è successo ieri o diciamo... No, non è successo ieri, è un Natale fa. E da quella volta ho cambiato e me lo sono fatto rimborsare addirittura. È stato un cambio continuo. Perché poi lui mi ha accompagnato a Roma. Qual è stata la media del cambio poi? È stato un bel... È stato un bel esercizio. Sì, un bel esercizio di comprensione. E poi soprattutto ha fatto perdere valore a tutta quella cosa che si era creata, quelle aspettative. Vabbè, quando sono tornata a Roma ho pensato. Hai capito che tu volevi soltanto comprendere, quella era la cosa che dovevi fare. Quindi esatto. È inutile. Va bene. Buona comprensione, ciao. Io però cambio scompartimento perché la chitarra. Se non ti disturba, anche perché adesso comincio anche a cantare. Ecco, ciao. Brava, ciao, canta. Ciao. Regrets collect like old friends. Here to relive your darkest moments. I can see no way, I can see no way. And all of the ghouls come out to play. And every redeemer wants his pound of flesh. But I like to keep something to myself. I like to keep my issues strong. It's always darkest before the dawn. And I've been a fool and I've been blind. I can never leave the past behind. I can see no way, I can see no way. I'm always dragging the horse around. I love its past, it's such a mournful sound. Tonight I'm gonna bury the horse in the ground. Shake it out, shake it out, shake it out, shake it out, oh wow, shake it out, shake it out, shake it out, shake it out, oh wow, and it's hard to dance with the devil on your back, so shake it out. Cause I am done with my graceless heart, so tonight I'm gonna cut it out and then restart. I love to keep my issues strong. It's always darkest before the dawn. Ooh, wow, shake it out, shake it out, shake it out, shake it out. Ooh, wow, and it's hard to dance with the devil on your back, so shake it out. Finalmente scende la ragazza con la chitarra. Non ne potevo più. Simpatica, carina, divertente, ossessiva nel suo essere sempre ancorata

Le amiche ti dicono, c'è uno da presentarti. Gli amici e gli amici delle amiche o degli amici. E te ne presentano un sacco. Sì. E queste persone che ti presentano, qual è lo standard? Sono tutti fallati. Fallati che vuol dire? Difettosi, venuti male. Sì, beh, se no non li presenti, se tengono per loro le amiche. Giusto, vero anche questo. Se un'amica ti presenta un uomo, per lei è già una seconda scelta. Le amiche sono sposate, magari quelle che mi presentano, o fidanzate. Non si butta via niente, questo dovresti averlo capito. No, beh, dai, okay, pensiamo no. bene. Ma che pensiamo bene? Non si butta via niente. Una donna che presenta un uomo a un'amica è un uomo sul anche quale... Anche uomini che presentano amici alle amiche. Beh, per fare un favore all'amico, se l'amico fallato, chiaro. Poveraccio, sbatte la testa sul muro e dice ti presento una che 3 anni che sta sola, magari nasce qualcosa. Che ha una gran pazienza. Perché pazienza? Te la metti a ridere, c'è da piangere, perché ridi? Perché bisogna prendere anche la vita un po' con ironia, se no... Andiamo al punto, cominciamo a capire se... Tu hai fatto delle classifiche di tipologie di uomo. Partiamo dicendo che gli uomini o sono i classici predatori, sì. oppure sono molto spaventati, molto pietosi. Cioè, o marpione, esatto. puttaniere, o uno che c'ha paura e timido. Che è spaventati, no, timido, spaventato. Proprio spaventato. Spaventato. Adesso non c'è una via di mezzo, un uomo normale. Saranno impegnati, immagino. Ah, sono impegnati. Quindi vai o col marpione, cioè ti capita, o il marpione che tanto sai che è uno che sta lì con l'orologio in mano. Esatto, dice, però dai. Si autoelimina perché è una tecnica infallibile. E qual è? Che aspetti il secondo, terzo, quarto appuntamento per vedere. Ecco, centellini la dazione. Esatto, quindi quelli si autoeliminano. Vabbè, quindi quant'è la media? 3 appuntamenti in bianco, poi uno decide se è il momento. Poi se mi piace, vediamo. Okay, va bene, ok. Poi invece gli altri, gli spaventati? Gli spaventati sono quelli che scappano subito appena hanno un vago sentore che tu possa potenzialmente essere interessata. E ma che cosa escono a fare con te? Pensano che sei no, ma a volte non escono. Hanno l'idea che una donna possa provarci e scappano a priori. Cioè tu li vedi in un contesto amichevole. Comune, con altra gente. Sì, sì, con altra ci gente. Ci parli un attimo. Ci parli. Dici che bello, ci vediamo, magari, andiamo a vedere un film. Anche no, anche solo magari... ti accompagno al parcheggio della macchina per essere carina, senza seconde intenzioni. No, no, no. Questi accettano, ti racconto questa di uno che effettivamente il passaggio l'ha accettato, poi quando ho parcheggiato accanto alla sua macchina si è girato spaventatissimo, mi ha guardato con gli occhi fuori dalle orbite e mi ha detto «Perché ti sei fermata?» e io ho dovuto spiegargli che non si poteva scendere con la macchina. Quanti anni aveva questo? Più di 30. Cioè 30 anni era spaventato? Spaventatissimo. Vabbè, hanno dei problemi. Beh, sai com'è. Tu gli avevi messo le mani addosso? No, io avevo solo spento il motore, avevo solo girato la chiave. Te eri spogliata in maniera seducente? No. Lo guardavi facendo... Eravamo in un parcheggio pubblico. Facevi dei segni con la bocca, la lingua? No. Nulla. Allora, da cosa sei spaventato? Non te lo so dire. Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. Un altro l'ho invitato, era un amico, l'ho invitato al mare. Una domenica, no, al mare. Così andiamo a fare una con passione. Amici, non da soli io e lui. Questo mi ha telefonato il giorno prima dicendo che non aveva il costume. Vabbè, allora, si poteva comprare. Io gli ho detto compralo. A Roma è piena di negozi che vendono costumi. Sì, compri con pochi euro, vai in una bancarella, se proprio sei esatto. pidocchioso. La mattina stessa mi ha richiamato dicendo no, la pressione è troppo bassa, non posso venire al mare con te. La pressione bassa sotto il costume? Questo. Che dire. Vabbè, comunque si è dichiarato, l'ha detto, non ce la faceva. Poi? E poi, a parte vabbè, gli spaventati, ci sono quelli un po' più psicopatici, che sono pieni di manie, che ti dicono già da subito cosa devi o non devi fare. Tipo? Tipo, ti devi vestire così, così, così, mettere i tacchi, mettere... Ti dicono come devi vestirti? Sì. Perché? Oppure come devi parlare, oppure... Ma come? Ma già dopo che è nato il rapporto o prima? Iniziano prima dicendoti magari che a loro piacciono le donne vestite in un certo modo, che fanno un certo tipo di lavoro, un certo tipo di vita. Vabbè, se tu fai il ragioniere e loro vogliono l'avvocato o viceversa. Sai, sono dettagli importanti. Però vogliono anche la donna indipendente, perché poi cercano la mamma. Quindi vogliono dipendente per le cose che piacciono a loro, ma indipendente per tutto quello in cui la donna si deve arrangiare. Beh, questo è normale. Donna telecomando, tu accendi esatto. e spegni. Vabbè, questo è la base. Infatti, con uno di questi che mi diceva che cosa dovevo scrivergli nei messaggi, a che ora dovevo mandarglieli, a un certo punto ho risposto se mi voleva infilare un dischetto nella schiena come le bambole di quando ero piccola. Almeno gli dicevo le cose che voleva sentirsi. Quindi questa è un'altra tipologia. L'uomo che ti programma tutto. Ce l'ho sì. sentita dire però, che dicono come devi vestirti. Sì, ma non solo, anche che cosa devi dire o i messaggi che devi mandare. C'è anche le parole che sì, devi... Sì, le parole. Mi devi scrivere questo nei messaggi. Dovresti mandarmelo la mattina, a mezzogiorno, la sera. Vabbè, ma vabbè. Sono soggetti borderline. Va bene, poi? Poi c'è chi invece magari si invaghisce davvero. Si innamora. Si invaghisce. È bello questo. Sì, poi conserva delle cose di te che dici, ma... sarà normale, tipo perdi il cerotto della vescica che avevi messo per proteggerti dal sandalo e la volta dopo che vai a casa sua lo trovi sul comodino, modello come fosse una reliquia. Esatto, modello reliquia, perché c'è il tuo sangue lì, il tuo esatto. E poi questo... anche sono stata io che mi sono spaventata e ho detto lo tengo per ricordo tuo, per ricordo tuo, è l'unica cosa che ho di te. Ma dagli delle mutande sporche. Adesso, non lo so, sei contento, è un feticista naturalmente. Sì. Vabbè, poi? E poi, che altro ti posso raccontare? Non so, vedo che è variegato. Però su questo tutte persone che hai saggiato iniziandoci un rapporto, poi capendo sì, che era meglio scappare. Che era meglio andare, esatto. E quelli che si attaccano? Beh, quelli che si attaccano, ad esempio quello della reliquia. Quello non te lo stacchi quello più. Non te lo stacchi più, però in realtà sono riuscita a scollarmelo. Aspetta, quando c'è delle scarpe vecchie, dei vestiti vecchi, invece di darli alla Caritas, Caritas lui, e lo fai felice. Però ti racconto come me lo sono scollata, non riuscivo, l'avevo già tentato di scollare in 2 o 3 volte, ma non capiva. Allora? E ho avuto la fortuna che, siccome io sono molto legata ai miei genitori, si sia arrabbiato, perché io pretendevo di passare un po' del mio tempo anche con loro, e mi abbia scritto una bellissima lettera in cui mi diceva che mi lasciava perché non avevo il senso della famiglia e tenevo troppo alla mia famiglia. E voleva sposarti lui? Sì, ma ci frequentavamo da 3-4 volte. Già voleva sposarti? E viveva con la mamma lui? No, lui viveva da solo, in una casa che però usava tipo bed and breakfast, e in cui tutto era ancora in cellofanato, un aspetto un po' Madonna, spettrale. Come casa Fantozzi, cioè il cielo fanno sui... Il cielo fanno sulle sedie, il cielo fanno sulla tavola. Vabbè, un maniaco. Un maniaco. T'arrebbe in cellofanato in anche cucina, sì. Avrebbe, esatto, mummificato in un angolo della casa. Non voglio pensare cos'era l'intimità con quest'uomo, si avvolgeva di domo, pacco. Schifo. No, qualcosa del genere. Sì. Ti posso dire che i cuscini sul letto ne aveva uno solo con la federa, perché l'altro teoricamente non lo usava. E quindi all'altro teneva teneva con la gomma piuma fuori. Esatto, ancora. Ma poi è comodo dormire con 2 cuscini, anche se uno è solo. Esatto. Però non metteva la federa per non sporcare. No, per non sporcare. Le finestre sempre chiuse. Gli asciugamani? Puliti. Pulitissimi. Se non li usava, magari. Ah, non si asciugava? No, non lo so. Si lavava? Visto come usava la casa, magari non usava neanche quelli. Comunque, beh, e cosa faceva di mestiere più o meno, per capire? Era impiegato. Tristissima, comunque. Pensa che vita triste. Raccomandato a questa persona, raccomandato dagli amici. Vabbè, gli amici lo vedono. Se un amico vero vede un disgraziato così, che vive solo, circondato dal cielo, gli do una donna, almeno. Una buona croce rossina, magari. Vai, dice. Sai, uno pensa sempre, tu cerchi marito. La piazza è questa, cara. Gli uomini migliori sono impegnati. Esatto, ti devi accontentare. Ti prendi uno impegnato e te lo dividi, se no cosa vuoi fare? Rimane poco, capito? È come il fondo di magazzino. O me il genere maschile è il fondo di magazzino, quelli che vediamo. Ma neanche in saldo però si trova più niente. No, è difficile, perché sai, per ogni uomo ci sono 4-5 donne che ambiscono comunque allo status. Se le donne fossero più leggere e se ne sbattessero del ma fatto... se uno non ambisce allo status, ma solo ad un rapporto normale. Devi andare a cercare persone con le quali hai rapporti molto più fisici e basta. Ne trovi tanti. Ma quelli sono i ragazzini però. Questo succede infatti. Ragazzini, venditori di borsette, c'è tanta gente. Gagliarda che non chiederebbe di meglio. Fate come fanno gli uomini, scindono radicalmente quella che è la soddisfazione. Ma li buttano sul Toy Boy se tra qualche anno vedo che... Sbrigati per qualche anno, sennò devi andare a cercare all'ospizio, se passa tempo. No, mi butto sul Toy Boy tra qualche anno. Sì, ma se aspetti un altro po', il Toy Boy, il rapporto, sono già persone di 50 anni. Il Toy Boy, tu oggi puoi ambire a un ragazzo di 19-20 anni tranquillamente. Beh, tra qualche anno uno di 25, dai. Ma 25 già c'ha la quindicenne, capito? Sì, è così. Vabbè. No, ma 25 guardano ancora un po' quella più anziana, sai, fa la nave scuola. Sì, vabbè, ormai la nave scuola è roba passata. Cara, spero che al prossimo incontro lungo le rotaie tu avrai concretizzato un po' più. Ti auguro buona caccia, buona fortuna. Stai andando a caccia oggi? No, oggi no, vado al lavoro. Niente, lavoro e basta. Bocca al lupo, ciao. Grazie, ciao. was mine, she looked so good. Il treno va. Devo dire che non mi ero scelto questo destino e questo compito. Quando misi all'inizio di questo programma assieme a Fabrizio Intonti l'idea che ci sarebbe sempre stata una donna ad aspettarci alla fine del binario, immaginavo una donna ipotetica, ideale, immaginaria, la summa di tutte le donne che uno può conoscere nella vita e la donna che mai conoscerà nella vita, la donna che ti racconta passi fondamentali della tua vita. E in effetti c'è una voce femminile che ogni tanto rievoca dei momenti passati, dei momenti di riflessione, dei momenti fanciulleschi, e questa l'avete ascoltata. Ma non immaginavo, dicevo, di essermi preso il compito poi di ascoltare le donne che devono raccontarti qualcosa della loro vita, e già questo mi starebbe bene. Ma quello che non mi aspettavo veramente è di essere chiamato a giudice e a consigliere di fatti di vita femminile. Ma cosa ne so io delle donne? Non ci ho mai capito nulla delle donne. Sono sempre stato molto curioso, ma più ne ero curioso e meno ci capivo. Eppure mi sono beccato, anche in questa puntata, l'audiolettera di una donna che mi chiede aiuto. Caro Gianluca, ho sentito le altre storie di donne che ha commentato sul suo treno e alla fine mi sono decisa a raccontarle anche la mia vicenda. Vediamo che ne pensa. Ho 35 anni, vivo da sola in una grande città del nord Italia. Dopo una storia durata 6 anni, ho avuto un po' di altre relazioni, ma nessuna è mai durata troppo. I motivi sono vari. Per quel che mi riguarda non mi sono più innamorata davvero, anche se sono anni che non provo più nulla per il mio ex. Non voglio accodarmi alle lamentele delle donne di oggi che dicono che non esistono più i maschi di una volta, eccetera, ma sicuramente posso dirle che io, pensando alle mie storie e storielle, trovo sempre una costante non tanto negli uomini quanto nel loro atteggiamento. Hanno tutti la prerogativa di cercare relazioni a brevissimo termine e parlare di relazione è ovviamente già surreale. Quello che mi è successo a settembre, invece, è una cosa diversa. È un classico, ahimè, molto doloroso, che mi porta alla depressione totale, quello di essere considerato l'uomo confidente. Quando l'uomo diventa confidente alle donne, smette di essere considerato come tale, cioè come uomo. Tutte le donne dicono che gli uomini sono tutti uguali, probabilmente saremo tutti uguali, apparteniamo a un genere che non permette punte. Ma perché continuate a cercare l'uomo diverso, visto che gli uomini sono tutti uguali? Accontentatevi di questa sorta di massificata uguaglianza del genere maschile, o non praticate più uomini, e praticate animali da cortile, e praticate oggetti d'arte, e praticate delle incursioni nelle profonde vette dello spirito. Non so che dirvi, se gli uomini sono tutti uguali, smettete di occuparvi di uomini. Sono stata in vacanza in un villaggio turistico in un'isola del Mediterraneo, trascinata a forza dalla solita amica che in quei luoghi ci sguazza. Dopo i primi 2 giorni volevo fuggire, ma la bellezza dei luoghi mi ha trattenuto. Ho cominciato a fare la sociale, tranne qualche attività sportiva con la mia amica. C'era un ragazzo 24enne del posto, bello come il sole, che faceva l'istruttore di immersione e ovviamente aveva tutti gli occhi delle turiste puntati addosso. Io me ne sono stata sempre per i fatti miei e mi sono risparmiata quelle battutine, quei gesti e sorrisi tipici delle donne che si propongono, anche perché, oggettivamente, c'erano ragazze molto più giovani di me che avevano ottimi argomenti da mostrargli. Ma un giorno, però, alla fine di una lezione, lui mi avvicina e mi chiede se poteva offrirmi un aperitivo. Mi sembrava assurdo, ma era così. Da quella sera è cominciata una storia. Sì. La chiamo storia, perché ora mi appresto a tornare da lui per qualche settimana e non abbiamo smesso mai di sentirci in questo intervallo di tempo. Lo so benissimo cosa sta già pensando. Ecco la donna metropolitana che si è trovata il toy boy esotico per un sollazzo di tarda estate e ora lo scambia pure per amore. È in sostanza questo quello che pensano e non dicono le mie amiche, proprio loro, incatenate a mariti che fingono di adorarle e che non aspettano altro che il momento giusto per tradirle. Non mi dica che anche lei la vede così. Io non so se durerà, non sono una scema, ma posso dirle che non mi sono mai sentita così voluta, desiderata e cercata come da questo ragazzo di 24 anni, che parla una lingua diversa dalla mia. E lui mi vuole come non ha mai fatto nessuno dei trentenni e quarantenni italiani con cui sono stata in questi anni. In fondo, non ci voleva molto per stupirmi e conquistarmi. Bastava desiderarmi. quello che veramente non capisco dell'universo femminile, così poco confidente, così smaliziato, così disilluso nei confronti degli uomini, perché invece è tanto confidente del quello che può essere generalmente chiamato l'universo delle amiche. Perché le donne si preoccupano del giudizio di altre donne? Perché le donne devono sempre riferire a una sorta di grande congresso delle donne quella che è la loro vita privata? Perché si sente giudicata dalle amiche questa signora? Perché in qualche maniera è condizionata dal giudizio delle amiche, che è scontato, è chiaro. Cosa hanno a dirgli le amiche scucchione, rosicone, che stanno a casa con i loro squallidi mariti in ciabatte, che lei se ne va nei luoghi tropicali e si fa un fantastico ragazzo, probabilmente con caratteristiche fisiche inimmaginabili, oltre ogni loro sogno, oltre ogni loro aspettativa, oltre ogni loro fantasia. Che devo dirle? Se si diverte, si sente amata, si sente ben posseduta, si sente ben lavorata, va benissimo. Ha trovato probabilmente l'uomo che non esiste nella latitudine in cui le è dato di vivere. Le dico molto crudamente: se non c'è passaggio di denaro, se questo ragazzo non ha da lei nessun vantaggio se non l'usufruire in maniera irrazionale, sconsiderata e generosa della propria affettività e della sua passionalità, vuol dire che evidentemente per lui rappresenta qualcosa. Certo, questo ragazzo si fa delle illusioni, vede la sua casa, vede il suo potere d'acquisto, vede i suoi regali, vede la sua presenza che in fondo per lui rappresenta una risorsa. Beh, lo stesso mercimonio per cui molti uomini si illudono con donne più giovani e con donne assolutamente non alla loro altezza di aver trovato l'amore, perché in realtà le mantengono. Se lei quest'uomo non lo mantiene, stia contenta, sta mantenendo un grande amore. Quel beau dimanche, les oiseaux sur la branche chantent à me faire taire. Je hais les dimanches, ils me désespèrent. Je range et m'en vais prendre l'air. Un revolver décaché, un couteau, mon foulard vert et l'envie, l'envie de se foutre en l'air. Et si peu de savoir-faire. Je ne sais pas où je vais, mais le sourire aux lèvres, je vais. Je vous l'avoue pour partir, c'est une belle journée. Je ne sais pas où je vais, mais le sourire aux lèvres, je vais. Et je vous l'avoue pour mourir, c'est une belle journée. Ce n'est pas facile de lâcher la rampe et de passer l'arme à gauche avec le cœur léger. Je suis paumé. Combien de jours et de jours mettront-ils à me trouver, et combien seront-ils à me pleurer? Cette question, où l'êtes-vous posée? Je ne sais pas où je vais, mais le sourire aux lèvres, je vais. Et je vous l'avoue pour partir, c'est une belle journée. Je ne sais plus où je vais. J'ai le sourire aux lèvres, c'est vrai, mais je ne sais plus si pour mourir, c'est une belle journée. Est-ce une belle journée? Est-ce une belle journée? Est-ce une belle journée?